Nicoletta, ma lo sai che nel mio viaggio a Miami, quando sono andata a vedere il quartiere con le ville dei VIP, lo sai qual era la più grande? No, non ho idea. Non hai idea, quella dell'inventore del Viagra, una villa enorme, Charles Fizer. Beh, ha fatto un affarone, con una casa però così grande, chissà quanto spenderà di riscaldamento. Riscaldamento a Miami? Semmai ci vuole un deumidificatore per tutta l'umidità che c'è. Vabbè, dai, ho sbagliato, andiamo. Iniziamo. Eccoci qui per una nuova puntata di Cuore e Denari. Subito la raccomandazione, rimanete in contatto con noi con il nostro numero verde 800 24 00 24. Seguiteci anche su Facebook e su Twitter. Rimanete connessi, ma non troppo connessi, perché il troppo, Storpia? no, stress, si chiama tecnostress e porta una serie di conseguenze che vanno dall'ansia. Tu sei un po' ansiosa? Un pochino, qualche volta dormo poco. Irritabile? Questo me lo devi dire tu. No, non tanto, e poi si dorme poco fino al calo del Senti desiderio. questa che ho letto su Vanity Fair, Nicoletta. Fra un tweet e un link si inabissa il quid. Perfetto, tu come sempre hai colto nel segno e ne parliamo oggi con il professor Emanuele Iannini, docente di sessuologia medica all'Università degli Studi dell'Aquila e autore di un libro che dovremmo leggere anche noi, che si intitola La scienza dell'amore. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di accensioni, insomma, dalle caldaie al desiderio. No, prima di tutto localizziamola questa caldaia del desiderio, è nel nostro cervello ed è lì che c'ha, diciamo, che sta la caldaia. E la cosa, diciamo, affascinante, interessante è che il termostato di questa caldaia è estremamente variabile da persona a persona, da sesso a sesso, da genere a genere. E non solo, ma è estremamente influenzato da tante cose, una delle quali è lo stress, e oggi lo chiamiamo appunto tecnostress, come ho appena sentito. 800 24 00 24, potete già subito chiamare il nostro numero verde o come sempre inviarci i messaggi che state già facendo, 349 238 6666. E se sotto le lenzuola può capitare che la temperatura cali, almeno la caldaia non ci tradirà, cara Nicoletta. Da oggi, 15 ottobre, è successo anche nel tuo condominio, si riaccendono i riscaldamenti. Si parte da molte zone d'Italia, presto seguiranno le regioni che ancora mancano l'appello, ma il riscaldamento costa e necessita di manutenzione, come sapete. A rispondere alle vostre domande a questo proposito, più tardi sarà con noi l'avvocato Marco Accornero, segretario generale dell'Unione Artigiani, che però già sentiamo, lo lasciamo salutare. Avvocato, buongiorno, così ci anticipa un po' i temi che affronteremo più tardi. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Ci sono alcune novità a livello nazionale che riguardano la frequenza dei controlli da effettuare sulla propria caldaia. E per essere sicuri, noi consigliamo sempre di affidarsi a un professionista serio e controllare sempre le istruzioni riportate sull'impianto, e daremo qualche consiglio giusto in questa direzione. Grazie avvocato, e anche per questo argomento cominciate a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. In questo periodo, questo nostro grande cavallo di battaglia, questo argomento, e anche quest'anno non siamo mancati all'appello. Natura, nutrizione scientifica. Vi presenta Essere e Benessere. Il desiderio è la cosa più importante, è l'emozione del presente, è l'essere vivi in tutto ciò che si può fare, non solo nell'amore. Il desiderio è quando inventi ogni momento. Quando ridere, parlare una Che grande cos'è il desiderio? Donne e uomini hanno un'idea, un atteggiamento, una risposta diversa. Per molte donne, ad esempio, desiderare equivale ad amare, è una cartina tornasole dell'intesa di coppia, e molti di noi confondono il desiderio col bisogno di attenzioni e rassicurazioni. Molto spesso per l'uomo il desiderio si accende in un attimo e spesso non ha nemmeno bisogno della relazione che funzioni da contenitore. Professor Iannini, torniamo alla nostra caldaia. Se il desiderio fosse una caldaia, uomo si accenderebbe forse con un fiammifero, per la Sì. donna sarebbe una caldaia diesel, non so se È una bella esistono. immagine, in effetti. Sì, no, diciamo la verità che questo diesel femminile, che è quello più difficile da capire, perché il fiammifero maschile sì, tutti ce l'abbiamo bene in mente. E perché è così difficile e così complesso nell'accendersi? Perché è una macchina che funziona bene in relazione con l'altro, col partner, cioè si proietta in qualche maniera sul partner. Ora, questo invece nel maschio non è che non accade, il maschio è tutto molto più rudimentale, quasi come se fosse una caldaia ad autocombustione, autoaccensione in qualche modo. Mentre invece, ecco, il desiderio femminile è come se avesse bisogno del desiderio di un altro e si nutre del desiderio del partner. Torno a ricordare la domanda per chi ci segue da casa, una domanda che sorge spontanea. Il desiderio è una questione di testa, di chimica, di altro, cambia con gli anni, come si accende e se si spegne, come si può riaccendere? Diteci la vostra all'800 24 00 24. Partiamo dal bacio. Nelle favole un bacio è capace di trasformare un rospo in un principe. Ci hai provato anche tu, vero? Ma mi è andata male, come puoi ben sapere. Ma nella vita reale è un indicatore importantissimo dell'intesa di una coppia, dell'intimità e del desiderio reciproco. Viviamo, lesbia mia, e amiamo. E non badiamo alle chiacchiere dei soliti vecchi troppo severi. Il sole tramonta e poi risorge. Ma noi, una volta che il nostro breve giorno si è spento, dobbiamo dormire una lunga notte senza fine. Dammi 1000 baci, poi 100, poi altri 1000, poi ancora 100, poi altri 1000, poi 100 ancora. Quindi, quando saremo stanchi di contarli, continueremo a baciarci senza pensarci, per non spaventarci e perché nessuno dei tanti che ci invidiano possa farci del male, sapendo che si può, coi baci, essere tanto felici. Professor Iannini, il messaggio è chiaro, baciatevi, perché il bacio ha un effetto protettivo, è una cartina di tornasole. Potremmo chiedere anche ai nostri ascoltatori qual è l'ultima volta, da quanto tempo non baciate la vostra compagna, qual è l'ultimo bacio appassionato che avete dato? Guardi, è la misura della intimità. Tutti pensiamo che la cosa più intima che due persone possano fare è far sesso, sbagliato. La cosa più intima che due persone possano fare è baciarsi, in realtà. E lo dimostra il fatto che il sesso può essere anche, come dire, venduto. Mentre invece il bacio no, è molto più difficile. E proprio perché è l'atto che noi riteniamo più intimo. E quindi, come giustamente diceva, la miglior cartina tornasole del grado di passione, di amore e di intimità che c'è in una coppia. Quindi ricordate e chiamateci, qual è l'ultimo bacio appassionato che avete dato o che avete ricevuto e vi siete poi lasciati trasportare e accendere? Professor Iannini, parliamo di desiderio, di calo del desiderio. Ci sono tante spiegazioni per giustificarlo, si tendono però spesso a privilegiare quelle legate allo stress, lo abbiamo fatto in apertura, il famoso tecno stress o alla crisi di coppia, ma poca attenzione in genere si presta alle componenti fisiche e biologiche di quella che è stata ormai definita la malattia dell'indifferenza, che lo sappiamo interessa uomini e donne con dinamiche anche percentuali differenti. Sì, diciamo che lì la parte del leone la fanno gli ormoni, che sono i grandi, è il carburante di questa caldaia, no? Quindi ogni caldaia ha bisogno di un carburante e questo è il testosterone. Attenzione, perché il testosterone lo è in entrambi i sessi, lo è nel maschio, lo è nella femmina, anche se poi la caldaia si comporta, come abbiamo detto, in maniera differente. Quindi il testosterone quando cala inizialmente, comincia a calare, addirittura adesso tra i 40 e i 50 anni si possono trovare dei maschi col testosterone basso, con le donne chiaramente lo spartiacque è quello della menopausa. Naturalmente ci sono poi tante altre condizioni patologiche che possono essere alla base, dal punto di vista fisico e biologico, alla base del calo del desiderio. Però lei faceva riferimento anche a un altro aspetto, alla indifferenza, in qualche modo alla noia, e questo sì, noi siamo una specie strana perché siamo monogami, biologicamente monogami, ci piace stare insieme, però contemporaneamente riceviamo dalla varietà sessuale un profondo e potente stimolo. Quindi siamo sempre in mezzo, in bilico tra queste due spinte biologiche, quella nei confronti della monogamia, quella nei confronti della trasgressione, per cui, come ho scritto nel mio libro, siamo l'unica specie monogama infedele. L'unica specie monogama infedele. Bella, questa me la segno, posso rivendermela, professor Iannini? Ok. Loro hanno avuto quello che io non ho potuto avere mai. Mai, mai, hai capito benissimo, Edoardo, mai. Ma Antonio, com'è possibile? Mai con chi mi piacesse. Con una donna che io amassi veramente. Ma allora con qualcuna no, ma con le altre sì. Con tutte le altre ti devo confessare che anch'io. Sì. Sì, anch'io qualche volta. Oh, non ti dico sempre, non ti dico nemmeno spesso, ma qualche volta. Cosa vuoi? Chi sta sempre a cavallo dovrà pur cadere di tanto in tanto. Marcello Mastroianni ad interpretare il Bell'Antonio. Certo che è stato proprio coraggioso a quei tempi a fare un film di questo tipo. Nicoletta, che ne pensi? Io penso di sì, professor Iannini. In effetti il messaggio era molto chiaro, ma fino a solamente adesso si parla di disturbi sessuali in modo più diretto. Pensiamo ai tempi, no? Mentre in quei tempi era un problema che veniva taciuto. Era la solitudine del Bell'Antonio, il romanzo e poi anche il film raccontano proprio questo, la impossibilità, l'incapacità di parlare delle proprie difficoltà sessuali. Attenzione, perché non è che le cose siano tremendamente differenti. Abbiamo fatto una ricerca, abbiamo pubblicata 2 mesi fa sul Journal Sex and Medicine, e ci siamo accorti in realtà che i giovani sono quelli che continuano ad avere molte difficoltà a rivolgersi al medico per raccontare i propri disturbi sessuali. Mentre invece gli anziani, strano a dirsi ma vero, riescono a dialogare con il medico con maggiore facilità relativamente al loro calo del desiderio, alla loro impotenza, alla loro anorgasmia a seconda dei disturbi. Professore, ma quando si può parlare di calo del desiderio per un uomo e quali sono soprattutto i disturbi che possono causare anche in un uomo giovane una diminuzione della libido? Ecco, diciamo dal punto di vista fisico, come abbiamo fatto riferimento prima, sono sicuramente gli ormoni, in particolare il calo del testosterone. Tutte le grandi malattie sistemiche possono in qualche maniera agire sul desiderio sessuale. E quella domanda che lei mi ha fatto è una domanda delle 100 pistole, però, perché è difficilissimo definire che cos'è il calo del desiderio anche dal punto di vista clinico. Se lei prende 100 dei suoi ascoltatori in questo momento e gli chiede che cos'è il desiderio sessuale, avrà 100 risposte diverse, perché per ciascuno di noi ha una caratteristica, un connotato che è estremamente individuale. Però abbiamo dei parametri clinici e certamente le fantasie, i pensieri sessuali, la voglia di fare l'amore, il fatto stesso di far l'amore sono quelli che il DSM, cioè il manuale di riferimento di psichiatria, considera i criteri fondamentali per definire il calo del desiderio. Ti leggo qualche messaggio, Nicoletta. Dai, mi piace. Marco, quarantenne da Firenze, ci scrive: l'ultimo bacio passionale l'ho dato ieri sera al mio compagno, appena tornato a casa dopo il lavoro, per fortuna è stato un bacio con un gran bel seguito. Invece chi ha qualche problema in più è un'ascoltatrice che ci dice: ho 44 anni, da sempre il mio problema è la quasi mancanza totale di desiderio. Vorrei tanto lavorare su questo perché amo mio marito, ma il sesso è quasi un dovere per me, perché proprio non ne sento il bisogno. Dottor Iannini, li vuole commentare con noi? Ah, beh, certo, ci sono in realtà delle storie le quali pesano in qualche modo come una zavorra nella vicenda sessuale di ciascuno di noi. Allora, queste donne che dicono, e spesso sono tali, sono donne, io non ho mai avuto desiderio sessuale, cosa c'è dietro? C'è un disturbo ormonale? È possibile, ecco, prima non ho nominato la tiroide, che è una ghiandola, come dire, che si ammala molto facilmente nelle donne, che può provocare il calo del desiderio, ma non basta, ci possono essere anche educazioni, formazioni, appunto storie che possono pesare, che possono portare a questa incapacità di sentire l'attrazione sessuale. Andiamo a Franca, che ci chiama da Como, 800 24 00 24, e poi a Marco, che invece ci chiama da Roma. Franca, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua, Franca. Allora, bene, senta, io volevo intervenire con naturalmente poi ognuno di noi racconta la propria esperienza personale. Certo. Io ho 61 anni, sono sposata con un uomo un po' più giovane di me. Volevo dire che certo con l'età poi il desiderio sessuale diminuisce un pochino, è naturale, ma la voglia di stare insieme, di parlare, di raccontarci le nostre cose, baci, carezze, quant'altro, fa sorgere questo desiderio, che dirò, è molto più saggio e più consapevole di quando ero giovane. Perché ci vuole un po' di manutenzione, professor Iannini, a proposito di caldaia. Le piace? Questa parola mi piace moltissimo, devo dire. Manutenzione dell'amore mi sembra un concetto, sì, sembra un po' da appunto manutenzione della caldaia, ma in realtà ci sta tutto. Ci sta tutto perché ci sono degli elementi di fragilità nella coppia, ci sono degli elementi di fragilità nel nostro modo di fare l'amore. Noi facciamo l'amore con la testa, il nostro primo organo sessuale non sta tra le gambe ma sta tra le orecchie. Quindi è chiaro che una dimensione di... appunto, immaginiamo una caldaia di una volta, quelle che vanno a legna, qualcuno che ci mette il legno dentro e che permette alla caldaia di continuare a bruciare, ecco, questa è assolutamente necessaria. E questa manutenzione comprende anche quando ci si accorge che la caldaia fa fumo, che non riscalda bene, comprende anche rivolgersi al medico quando appunto è necessario. Professor Iannini, mi intrufolo io perché le vorrei fare questa domanda. Lo stress in periodi come quello attuale è provocato molto anche dalla crisi economica. Le leggo il messaggio di un'ascoltatrice da Como che oggi possiamo proprio definire la rappresentante, come dire, tipo degli ascoltatori del nostro programma. Noi abbiamo creato Essere Benessere proprio, non Essere Benessere, abbiamo creato Cuore Denari perché volevamo mettere insieme i temi della salute e quelli dei soldi, che sono i temi principali dei quali si parla tutti i giorni nelle nostre case. L'ascoltatrice ci scrive: io e il mio compagno da un anno conviviamo, lui spesso mi spegne il desiderio perché la sua unica amante è diventata il risparmio morboso su tutto a causa della crisi. Quindi anche queste situazioni condizionano il desiderio della coppia? Assolutamente sì, c'è un articolo del New England Journal of Medicine, che è la Bibbia dei medici, ormai di diversi anni fa, ma già allora, utilizzando come modello la società americana, ci si rendeva conto che la cosa che meglio correla con l'attività sessuale di una coppia, ecco, lo prendiamo come marker di desiderio, come rappresentazione del desiderio, sa cos'è? Il censo. È la cosa che sembra più lontana dal romanticismo, ma tanto più la coppia è economicamente spensierata, per così dire, tanto più è facile che ci sia passione sessuale. Quindi la storia che ha raccontato purtroppo è una storia assolutamente vera. Una delle ferite che la crisi ha provocato nel tessuto sociale è anche quello sulla coppia, sulle dinamiche di coppia. Lo stiamo vedendo continuamente. Voglio leggere però il messaggio anche di Umberto, che sì, chiede: ma se rifilo il testosterone nel caffè a mia moglie, corro il rischio che le crescano i baffi? E qui mi viene il proverbio: donna baffuta, eccetera eccetera. Il proverbio è giustissimo, in effetti la saggezza popolare come al solito ci azzecca sempre, e infatti donna baffuta, donna sempre piaciuta, donna baffuta sempre piaciuta, lo ma a lei bene, piacciono le donne baffute. Ma professore, professore, voglio vedere, mi mandi una foto della sua fidanzata, di sua moglie, voglio vedere se ha il baffo. Non ci credo. non ce l'ha. Ma perché non ce l'ha? Perché in realtà le donne lo leviamo, le saggezze popolari, la donna ha fisiologicamente 10 volte meno testosterone di un maschio, ma attenzione, perché è 10 volte più sensibile. Quindi in realtà l'idea di mettere nel caffè il testosterone può essere un'idea simpatica, se non fosse che poi appunto i baffi sono facilmente in agguato, perché in realtà il testosterone per una donna è necessario in piccolissime dosi, quasi omeopatiche, per cui spetta l'endocrinologo stabilire quando ci sono delle reali carenze, per cui bisogna somministrare il testosterone. Abbiamo ancora tempo per sentire velocemente Marco da Roma. Sentiamolo. E poi nella seconda parte però voi chiamate, perché il professor Iannini ha dato un quadro, quali possono essere le cause del calo del desiderio, ma professor Iannini, magari possiamo anche tirarlo un po' su, si accendono le caldaie, si accende anche il desiderio. Marco, poi li raffreddo tutti io con i mercati. Sì, buongiorno, Marco, a voi. Sì. Buongiorno. Appunto, mi volevo riallacciare in proposito di ormoni, testosterone. Allora, sono normalmente eterosessuale, però volevo chiedere al professore: perché mi riallaccio a quella cosa grandissima che ha detto sul nutrirsi del desiderio dell'altro. Io in questo mi sento un uomo un po' atipico, nel senso che non so se denota un'eccessiva sensibilità o qualcosa, ma quanta componente femminile c'è in un uomo? Cioè, io noto e denoto che se non vedo il desiderio, cioè se veramente mi nutro del desiderio della mia partner, e quindi se non c'è, se non lo vedo, se non lo sento, si spegne ogni caldaia, nemmeno la fiammella pilota c'è più e quindi si spegne completamente. Marco ci piace molto. E piace anche a me, devo dire, perché in realtà non è, non c'è più bisogno, questa è la cosa che stiamo imparando in questi ultimi anni, di preoccuparsi della componente femminile, della componente maschile nell'un stesso e nell'altro. Mm-hmm. Questa è l'idea che aveva in testa Freud, come se fosse in qualche maniera una colpa. No, è che siamo proprio così. La nostra sessualità è una sessualità in realtà molto più fluida e molto più capace di assumere il bene, qualche volta anche il male, dell'altro sesso, di quello che possiamo pensare. In altre parole, oggi come oggi siamo meno schiavi di comportamenti sessuati, cioè di comportamenti definiti, e ben vengano i maschi che sono capaci, come le donne geneticamente sanno fare, di nutrirsi del desiderio dell'altro. Questo è un segno dei nostri tempi, di una società che per fortuna rinuncia sempre di più a dei ruoli sessuali che sono delle gabbie per affrontare la sessualità in una maniera più completa, riscoprendo quelle parti di se stesso che sono più appartenenti all'altro sesso, ma che sono presenti in ciascuno di noi. Quindi tiratele fuori. Cuore e denari. Deborah canta, professor Iannini, è vero, noi siamo complicate, ma molte sono rassegnate. 4 donne su 10 infatti non hanno rapporti sessuali appaganti, un dato, secondo uno studio condotto dai ricercatori del Massachusetts General Hospital, che dipende proprio dal calo del desiderio. E molte donne pensano, arrivato ad una certa età, sulle soglie della menopausa è normale, e si rassegnano. Ma ci sono anche tante donne che invece ci stanno scrivendo e dicono: voglio mantenere vivo il mio desiderio, si è spento, voglio riaccenderlo. Sì, direi che sono donne che hanno a cuore la loro cosiddetta salute sessuale, e ben venga, anche perché non è affatto normale che ci sia un calo del desiderio, in menopausa. Noi accettiamo la presenza della menopausa perché la nostra cultura e la nostra medicina ci hanno allungato la vita, quindi superiamo quello spartiacque, superiamo la speranza di vita, naturale, e con questo dobbiamo accettare anche il fatto che la nostra vita sessuale deve continuare, non a considerarla una conseguenza inevitabile dell'invecchiamento. Quando c'è un calo del desiderio, ecco, c'è il medico che ci aiuta a capire se c'è. Anche perché, Deborah, io ho fatto questo conto, professore, io ho fatto questo conto e lo volevo condividere con la mia amica, che se tutto va bene, Deborah, si vive, una donna vive più tempo in menopausa che non in età fertile. Ah sì, diciamo che con l'andamento adesso della demografia italiana sicuramente è così. Professore Iannini, è d'accordo? Sono d'accordissimo e vi racconto una storiella brevissima. I lupi e i cani sono esattamente lo stesso tipo di animale, in buona sostanza, con una differenza: il lupo non va in menopausa perché muore prima, il cane che abbiamo addomesticato, che vive quindi in una dimensione sociale particolarmente accudente, la menopausa invece ce l'ha. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la menopausa è una conseguenza della nostra cultura. Non è tanto prevista per natura quanto per cultura, e per cultura dobbiamo imparare a vivere questa menopausa con tutte le caratteristiche di una vita sana, di una vita appunto in salute, compresa la salute sessuale. Si cala in maniera molto pertinente all'interno di questa discussione Roberta da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Stavamo proprio parlando di lei. Io ho un problema, in pratica sarà 4-5 anni che sono andata in menopausa e mi è proprio calato il desiderio. In più io faccio uso di un antidepressivo che prendo tutti i giorni e non so come fare. Io l'ho detto anche al mio medico curante, ma non mi ha dato nulla. Volevo sapere se c'è una possibilità, perché ho un marito che invece non ha questo problema. Scalpita. Scalpita, un marito che scalpita, professor Iannini. E ha ragione a scalpitare, perché? Prima di tutto lei ha menzionato una cosa che non avevamo ancora ricordato, ma che per le donne è particolarmente importante, che è la depressione. La depressione, malattia più al femminile che non al maschile, ma non solo, ha tra il suo corteo sintomatologico proprio il calo del desiderio. Sì. Ma purtroppo anche la terapia della depressione, cioè i farmaci antidepressivi, provocano il calo del desiderio, quindi è purtroppo un circolo vizioso. L'ideale è quello di uscire dalla depressione cercando di fare a meno dei farmaci, ma come sottolineavo prima, anche cercare l'aiuto negli ormoni, perché l'aiuto può essere assolutamente efficiente ed efficace in una condizione di sostanziale assenza di effetti collaterali, se gli ormoni sono realmente necessari. Mi scusi professore, ma una donna, per risolvere questo problema, da quale specialista va? Va dal suo ginecologo, va dal medico di base, va dal sessuologo, si va insieme, si va da soli? Allo psicologo. Va dallo psicologo. È difficile dare una risposta univoca. Diciamo che la figura del sessuologo medico, cioè di un medico, generalmente un endocrinologo, che è stato formato per quello che riguarda la sessuologia, probabilmente la più indicata, perché le materie di ordine chirurgico come la ginecologia e l'urologia sono relativamente poco attinenti a queste dimensioni, che sono un pochino più impalpabili, mentre gli ormoni hanno un ruolo assolutamente centrale, quindi direi senz'altro l'endocrinologo, l'andrologo sono probabilmente le figure di riferimento. 800 24 00 24, se volete intervenire, se volete avere un consiglio, se volete raccontarci la vostra esperienza. Tra poco parleremo anche delle pillole dell'amore, a volte il desiderio si accende così, è vero desiderio, ne parliamo tra poco, perché adesso c'è Paolo da Firenze che ripesca il tema dal quale siamo partite, cioè quando le condizioni esterne provocano questo calo del desiderio. In questo caso Paolo, un problema sul lavoro, giusto? Sì, ma è un problema indiretto, perché io 2 anni fa, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a lei, benvenuto. Praticamente io lavoro per una grandissima azienda italiana e praticamente mi trovo benissimo sotto tutti i punti di vista, però 2 anni fa mi avevano proposto una qualifica, poi non me l'hanno data e all'improvviso io ho avuto un calo della libido, praticamente. Pronto? Sì, siamo qua appesi al suo racconto, Paolo. Niente, in pratica io sono sposato, vi racconto la storia, sono sposato e in quel periodo avevo una relazione con una ragazza molto più giovane di me e proprio la sera stessa che mi hanno comunicato questo problema, cioè questo discorso, si era fissato di vederci, praticamente io ero impotente, praticamente impotente, e questa ragazza non capiva il motivo. Certo. Io poi, essendo orgoglioso di natura, non gli volevo dire che qualcosa... Che aveva questo... Che aveva, perché che, come dice il professor questa delusione, Iannini, ecco, sul lavoro che le ha provocato. Tutto parte dalla testa, professor Iannini. Sì, parte dalla testa, e la storia è talmente paradigmatica che tutti noi utilizziamo la stessa parola per dire due cose appunto molto legate da questa storia. La parola è potere, infatti la mancata promozione è una perdita di potere, per l'appunto, che si manifesta clinicamente sotto forma di impotenza, quindi mancanza di potere. Ecco, vedete che anche l'etimologia ci aiuta a capire la fortissima connessione che c'è tra l'immagine sociale di se stesso e la propria proiezione a letto. Ci portiamo in camera da letto le storie che viviamo fuori. Professor Iannini, vogliamo parlare anche delle pillole dell'amore? Che sono un aiuto. Hanno rivoluzionato il mondo. Adesso le donne le vedono con... molte donne vedevano la pillola come una sorta di dimostrazione tangibile che qualcosa era cambiato. Insomma, non basto più io, ci vuole la pillola. Adesso anche l'atteggiamento delle donne è cambiato. Sì, però rimane questa sorta di gelosia nei confronti di queste pillole. Mm. Le donne sono diffidenti, le considerano una perdita, un vulnus, una ferita del loro sex appeal, e questo è il motivo per cui è stata inventata una di queste pillole, la famosa mentina dell'amore, che ha la caratteristica di, appunto, avere la forma di una mentina e l'aspetto di una mentina, di sciogliersi istantaneamente sulla lingua senza acqua, in maniera tale che il maschio conservi in qualche modo il proprio segreto e non lo condivida con la partner. So che questo qui può sembrare dal punto di vista femminile una cosa un po' strana, ma in realtà nasce proprio dal bisogno di non avere da parte della partner questa opposizione, direi quasi ideologica, nei confronti delle pillole della partner. Perché poi se vi sentite giudicati, vero, esatto, professore? Esatto, quindi, ecco per quale motivo appunto la discrezione diventa un aspetto clinico fondamentale. Intanto quindi la pillola discreta, appunto la mentina dell'amore, è quella che vince in qualche maniera questa gara, perché le altre sono tutte molto evidenti, no? Una delle quali, no, il famoso Viagra addirittura, è un marchio che sta nei dizionari della lingua italiana. Con quella villa che si è fatto Charles Pfizer. Il villone dove non ci vuole il riscaldamento ma il deumidificatore. Esattamente, perché a Miami. Peraltro ho scoperto che il generico del Viagra, che si chiama Sildenafil, professor Iannini, è così? Ha conquistato nel giro di 2 mesi e mezzo il 35% delle quote di mercato in Italia, quindi una crescita esponenziale. Ho letto che in altri paesi invece la crescita è stata molto più, come dire, tranquilla nel tempo, più costante. In Italia un boom di vendite, naturalmente, quindi per il farmaco che ha visto il brevetto scaduto, e quindi insomma è un prezzo più conveniente, evidentemente. La pillola madre, cioè appunto la pillola blu che lei ha nominato, mentre invece ha lasciato intoccate le altre due molecole, Vardenafil e Tadalafil, che invece conservano, appunto, anche perché hanno indicazioni diverse, appunto, il Vardenafil, abbiamo detto, è la mentina, mentre invece il Tadalafil è quello che si utilizza quando c'è un problema. Che differenza di prezzo c'è, professore Iannini, tra il generico e il farmaco brevettato? Dunque, a seconda, ci sono tante marche di generico, e si può computare una differenza intorno al 20-30, qualche volta anche un pizzico di più. Ma attenzione, perché sostanzialmente nella mia pratica clinica questo non rappresenta un elemento assolutamente centrale per il paziente. Strano a dirsi, nonostante la crisi, moltissimi pazienti mi chiedono prima di tutto la sicurezza dell'efficacia. E molte volte ottengono questa sicurezza dell'efficacia utilizzando il farmaco brandizzato e non quello certo. generico. Allora, ci siamo riaccese. Non c'è crisi che tenga, comunque c'è anche il generico, volendo, ecco. Ah, certo. Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie, buona giornata. A voi. Siamo state molto bene, grazie. Torni presto a trovarci. Ecco qua. È un piacere, buona giornata a voi. Sì, non sono molto contenti gli uomini magari di ritornare a parlare di questo argomento, perché c'è sempre un po' di pudore nello scoprirsi, quindi molti scrivono messaggi ma pochi telefonano, ecco, molte più donne forse vengono allo scoperto. Senti, andiamo a sentire sulle strade italiane che succede. Mi sembra una buona idea. Cuore e denari. Nicoletta, abbiamo parlato fino ad ora di quanto è importante riscaldarsi grazie ai consigli dei tuoi esperti nella coppia, ma soprattutto riaccendersi. Comunque vada, a casa dei nostri ascoltatori c'è un riscaldamento su cui ogni anno si può comunque contare, che è quello dei termosifoni. Viva le certezze! I termosifoni che si sono riaccesi proprio oggi. Giusto, almeno per gli impianti di riscaldamento con riscaldamento centralizzato, per gli edifici con riscaldamento centralizzato. Oggi è il primo giorno di accensione, sono interessate le zone d'Italia contrassegnate con la lettera E. Lo sapevi che le zone climatiche sono contrassegnate con le lettere dell'alfabeto? Sai già la risposta. Va bene, da oggi lo sai, quindi non puoi più sfuggire. Altre zone aspetteranno il 1 novembre, altre il 15 novembre, ed è scontato che siano le zone chiaramente più calde. Ma questo calendario lo mettiamo sulla pagina Facebook? Certamente, quindi lo mettiamo subito. I nostri ascoltatori possono controllare la pagina Facebook di Cuore e Denari, Radio 24, così potete controllare quando tocca a voi e in che zona vi trovate. Allora, immagino, cara Deborah, che tu oggi ci spiegherai come si riaccende il riscaldamento e come si controlla perché funzioni al meglio, e soprattutto cercherai di farci risparmiare un po', insomma di non spendere troppo. Ma casa tua è centralizzato e autonomo? Perché tutte queste domande sempre? Ma lo saprai, è centralizzato. Ma tutto quel povero Carlo deve fare in quella casa. È centralizzato. E allora adesso vi daremo tutti i dettagli per risparmiare e per sapere come comportarvi con il vostro impianto di riscaldamento. Salva Danaio. il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più. Per la verità, prima di parlare dell'accensione del rimpianto di riscaldamento e della manutenzione della caldaia, facciamo un passo indietro, perché con gli ultimi bonus case introdotti dal governo, che probabilmente saranno di nuovo prorogati, si può anche risparmiare e installare un nuovo impianto con un considerevole risparmio. Allora, dedichiamo questa parte della nostra trasmissione a questo argomento. Il tecnico, come dire, di oggi è il dottor Marco Zandonà, direttore dell'area fiscale dell'ANCE, l'associazione dei costruttori edili, oltre che esperto di questioni fiscali per il Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E grazie della sua collaborazione. Chiediamo ai nostri ascoltatori: avete un riscaldamento autonomo centralizzato? Conoscete tutte le regole per l'accensione e la manutenzione di questi impianti? Avete in programma di installarne uno a breve, magari per la casa in montagna? Raccontatecelo all'800 24 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666. Zandonà, di quali incentivi possiamo approfittare se vogliamo installare un nuovo impianto di riscaldamento, anche se in realtà adesso è ora di accenderle, anche un po' tardi per fare adesso questo lavoro? Sicuramente ci sono due diverse agevolazioni. La prima riguarda proprio la sostituzione integrale o parziale dell'impianto di riscaldamento con un impianto dotato di caldaia a condensazione, quindi ad alta efficienza energetica. In questi casi le spese sostenute per l'installazione del nuovo impianto fruisce di una detrazione fiscale, quindi dall'IRPEF, del 65% delle spese sostenute sino a un importo massimo di 30.000 euro. Questa agevolazione dura per i lavori all'interno delle singole abitazioni entro il 31 dicembre del 2013. Invece per i lavori sulle parti comuni condominiali e quindi in presenza di un riscaldamento centralizzato fino al 30 giugno del 2014. Quindi, ribadendo, se io sono un privato e voglio rifare l'impianto nella mia abitazione, mi devo sbrigare, altrimenti perdo gli incentivi fiscali, devo fare questi lavori entro la fine dell'anno. Se invece è il condominio che si incarica di appunto fare questo lavoro, abbiamo un po' più tempo. Ora, dalle prime bozze poi del nuovo disegno di legge di stabilità si parla di una proroga fino al 31 dicembre 2014 per tutti, però adesso vediamo, noi esaminiamo adesso la situazione com'è attualmente. Infatti. Poi la seconda agevolazione invece per chi fa comunque interventi di sostituzione dell'impianto di riscaldamento con caldaia anche non a condensazione, ma sicuramente con una maggiore efficienza energetica, oppure anche interventi non di semplice riparazione, ma di sostituzione di pezzi o comunque di sostituzione di parte rilevanti dell'impianto, abbiamo la famosa detrazione del 36, che adesso è al 50% fino al 31 dicembre sempre. E quindi anche per questo, insomma, se si hanno un po' di soldini da parte bisogna sbrigarsi. Io volevo però sapere una cosa. Allora, facciamo finta, io non sto ristrutturando casa, non sto facendo lavori di miglioramento energetico, quindi se ho capito bene non rientro in questa agevolazione. Insomma, se voglio cambiare la caldaia, punto e basta, non ho nessuno sconto? È una domanda pertinente, Zandonà, perché recentemente anche con i nuovi incentivi fiscali varati per chi vuole rifare l'arredamento della propria abitazione e la cucina, sappiamo appunto che si possono ottenere solo se contestualmente si ristruttura l'intera abitazione. E questo vale anche per l'impianto di riscaldamento? Sicuramente, cioè nel senso che la sostituzione della caldaia in ogni caso è un lavoro di manutenzione straordinaria dell'abitazione, quindi se io sostituisco la caldaia e fruisco della detrazione del 50%, non di quella ovviamente per il risparmio energetico che attualmente è al 65%, e opto per quest'altra agevolazione perché sono alternative, posso poi anche fruire dell'agevolazione per l'acquisto dei mobili all'interno della stessa abitazione, quindi sono collegate. Quindi in relazione al tipo di sconto che scelgo, allora devo posso capire appunto se questo lavoro deve essere legato alla ristrutturazione o meno. Certo che dobbiamo proprio affidarci a 12.000 esperti prima di intraprendere io qualunque lavoro. Io vengo con te, guarda. Brava. Ormai. Zandonà, abbiamo un minuto di tempo prima di salutarci. Cosa deve fare il cittadino per beneficiare dell'incentivo? Non basta andare dal rivenditore autorizzato, comprare la caldaia e portarla in casa, bisogna anche fare tutti i calcolini di quanto consuma dal punto di vista energetico l'abitazione, e poi che cos'altro deve fare? Deve innanzitutto pagare le spese tutte con bonifico bancario o postale, anche online comunque bonifico bancario. Dopodiché, per fruire del 65% fino a 30.000 euro, deve fare una comunicazione all'Enea, online sul sito dell'Enea, inviando una scheda informativa che però per l'impianto di riscaldamento può essere redatta direttamente dal proprietario. Benissimo. Quindi c'ha una certificazione del tipo di impianto e ovviamente invia questa scheda informativa compilata online al sito dell'Enea. Grazie. Abbiamo terminato, Zandonà, non abbiamo più tempo, ci ritorneremo su questi argomenti. Noi dobbiamo fermarci perché abbiamo il giornale radio, poi Nicoletta ritorniamo subito dopo. Certo. Cuore e denari. Cam camini, cam camini, spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte è con voi se la mano vi do. Devo dire che il film Mary Poppins si presta ad essere utilizzato su tantissimi argomenti, Nicoletta. Come Ricky presento Sally. Esatto. A proposito del tema che abbiamo affrontato nella prima parte del programma, abbiamo parlato di calo del desiderio, di caldane anche. Sì, ne parleremo magari. E adesso veniamo alle caldaie, perché si riaccende il riscaldamento, ripartono le caldaie, gli impianti di riscaldamento, ma le caldaie vanno anche controllate periodicamente. E torniamo a fare il punto su questo tema, che è un grande classico delle nostre trasmissioni, anche perché le regole cambiano continuamente, qua non ci si capisce più nulla. E allora faremo un punto molto preciso della situazione con l'avvocato Marco Accornero, segretario generale dell'Unione Artigiani. Buongiorno avvocato e benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, 800 24 00 24, avete un riscaldamento autonomo o centralizzato? Io ce l'ho centralizzato, Debra. L'abbiamo scoperto definitivamente. Finalmente. Che è centralizzato. Conoscete tutte le regole per l'accensione e la manutenzione di questi impianti? Quanto avete speso o vi aspettate di spendere per un lavoro di questo tipo? Chiamateci. Chiamateci appunto al numero verde oppure scriveteci anche al 349-238-6666, come già molti di voi stanno facendo, e poi Nicoletta appunto ci aiuterà anche ad orientarci fra i tanti messaggi che sono un po' mischiati tra i temi della prima parte necessariamente, tra il nuovo impianto di riscaldamento per fruire dei vantaggi fiscali e le regole appunto per la manutenzione. Non ci sono vantaggi fiscali per scaricare il marito che non si accende, però. No, vero? No. Mi documenterò e magari dedicheremo una puntata anche a questo. Chissà se possiamo rottamarlo il marito che non funziona. Vabbè. Allora, avvocato Accornero, ripartono ufficialmente oggi i riscaldamenti, ma per chi li avesse accesi prima, intanto, c'è un rischio di sanzione e quali limiti ci sono per le temperature? Innanzitutto il rischio di sanzione è se l'accensione avviene per un periodo superiore alle 7 ore giornaliere e dipende dalle zone, perché se parliamo per esempio del nord Italia e della Lombardia in particolare, da cui io opero, diciamo Comunione Artigiana Provincia di Milano, comunque da oggi l'accensione è ufficiale e regolare e l'accensione può essere per 14 ore durante la giornata. Nelle altre zone d'Italia, più si scende a sud d'Italia, più il tempo di accensione viene ritardato, ovviamente. Per arrivare nell'estremo sud d'Italia l'accensione sarà consentita dal 1° dicembre. Se l'accensione Beati avviene loro, prima, direi. La sanzione scatta in due condizioni. Il primo aspetto è che superi le 7 ore giornaliere, questo dipende da regione a regione. In Lombardia sono 7 ore, però diciamo grosso modo se supera le 7 ore e se le condizioni climatiche lo consentono, ovviamente, perché laggiù non consentirebbe, perché può esserci la giornata eccezionalmente fredda prima della scadenza naturale, cioè della partenza. In quel caso è consentito. Tradotto, capirete che sanzionare comportamenti di questo genere diventa estremamente difficile e quindi si va. Infatti è quello che ci scrive un ascoltatore. Sanzione, scusate, avete mai visto un controllo? Buon lavoro. Tra l'altro, ecco, avvocato Accornero, peraltro c'è chi va a controllare, perché mi chiedo, ci sono molti edifici in cui magari possono esserci magari molti anziani che ci abitano, oppure famiglie con bambini molto piccoli. In nessun caso è prevista una deroga? Ripeto, no, per specifiche per categorie di persone, tolti probabilmente gli ospedali e gli ospizi, direi di no. È legata alle condizioni climatiche e al tempo di accensione. Benissimo. Concordo, quindi se fosse con quanto dice l'ascoltatore, i controlli sono orari e peraltro difficili, perché dimostrare che l'accensione è stata superiore a 7 ore è difficile, si va sul buon senso e sul senso di legalità delle persone, tenuto conto che comunque accendere prima in realtà è un costo per l'edificio, per ovvio. Quindi presume che lo faccia solo quando è necessario. È strettamente necessario. Il consumatore in quel caso lì spende dei soldi. Ecco, a proposito di soldi da spendere, avvocato Accornero, andiamo un po' ai temi della manutenzione, ogni quanto va fatta, perché qua ancora una volta dalla scorsa estate abbiamo avuto un cambiamento delle regole e delle tempistiche con le quali appunto orientarci per fare questi controlli. Visto che gli impianti devono essere a posto prima di essere accesi, ci dice intanto il consumatore dove va a prendere le informazioni per capire, anche perché credo di ricordare che le regioni dispongono diversamente, come fa un consumatore a sapere che tipo di controllo deve fare e ogni quanto deve farlo? Purtroppo questa è l'ennesima giungla burocratica del nostro paese, perché la norma nazionale dà un'indicazione che peraltro è derogabile dalle regioni. E quindi la norma nazionale, il DPR 74 di quest'anno, ha sostanzialmente raddoppiato in via teorica, oserei dire, i tempi di esecuzione delle manutenzioni, dei controlli, portandoli per gli impianti, le cosiddette caldaiette, a 4 anni, prima era 2 anni. E le caldaiette è ormai il 90% è proprio il tipico impianto di riscaldamento che abbiamo in casa, cioè di accensione del riscaldamento. Però poi le regioni possono derogare, stabilire tempi più ristretti. In regione Lombardia, ad esempio, vige ancora il periodo biennale, quindi dei controlli ogni 2 anni. È una legge questa che stabilisce i controlli dei 2 anni, che risale al 2006. Però, avvocato Accornero, 2 anni, 4 anni, 1 anno, in realtà le tipologie di controlli di cui stiamo parlando sono diverse, perché abbiamo il controllo dei fumi, il controllo per l'efficienza energetica, il controllo per la sicurezza, ma ci dice per esempio quello che deve essere fatto ogni 4 anni, che definizione ha? È il controllo dell'efficienza della caldaia, quindi il controllo dei fumi da cui si può verificare se la caldaia brucia bene. E questo è un tipo di controllo che si fa 4 anni, esatto. Di sicurezza, perché ovviamente se ci sono dei gas incombusti possono costituire un pericolo per il consumatore, per l'abitante dell'abitazione, sia per il risparmio, perché i gas non bruciati, questo è intuitivo anche questo, comunque il contatore li conteggia, però in realtà non producono calore, quindi c'è uno spreco. Quindi in realtà possiamo vedere la manutenzione più frequente anche come un investimento per avere un impianto. No, questo senz'altro, però sa, ha ragione, però sa com'è oggi con quest'aria che tira, con la famiglia che non arriva alla quarta settimana del mese, questi 150, 200, 80 euro, poi dipende anche dal professionista. Infatti, con il quale ci imbattiamo, e sono soldi che... Umberto che ci specifica... Sono tariffe queste che lei ha detto, aspetti, che a noi non risultano. Aspetti lì, sentiamo però gli ascoltatori. Però, avvocato, Umberto, quello che ci ha scritto del testosterone nel caffè, lei non c'era ma poi gliela raccontiamo dopo, ci scrive: girano un po' le scatole nel vedersi arrivare in casa un ragazzetto che per fonare 10 minuti la caldaia ti spillo 80 euro, retribuzione netta giornaliera media di un italiano. Ecco, avvocata Cornero, lei magari non sarà anche d'accordo, però di fatto in media questo è quello che pagano le famiglie italiane. Se sono 80 euro va anche bene. 80 euro lo definirei il prezzo medio, siccome lei, se non ho capito male, prima diceva 180, allora 180 siamo fuori da ogni logica di mercato. 80 euro è il costo di mercato. Occorre tenere conto che in quel prezzo, mi rendo conto che può sembrare pesante, c'è sia il tempo dell'intervento, il tempo per recarsi, che comunque è tempo di lavoro, all'abitazione, il tempo per tornare, il tempo di compilare la documentazione che va trasmessa, che il tempo si paga in regione Lombardia, e poi il mezzo di trasporto, generalmente un furgone, quindi diciamo è un costo aziendale, non è per l'artigiano tutto guadagno. Il guadagno è molto inferiore perché ci sono i costi connessi alla prestazione. Certo, allora sentiamo qualche ascoltatore con alcune domande, vediamo un po'. Nicoletta, ce l'hai tu davanti a te le telefonate che faccio fatica ad aprire? Eccolo qua, sì. Che abbiamo? Matteo dalla provincia di Monza e Brianza, quindi siamo qua sul territorio. E poi andiamo a Prato con Yuri. Bellissimo nome, tra l'altro. Matteo, buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto complimenti sempre per la trasmissione. Grazie. In parte avete già risposto alle mie, diciamo, domande, perché appunto io, residendo in provincia di Monza e Brianza, non è mai chiaro, a seguito poi di questa nuova approvazione del DPR 74, ogni quanto va fatto questo controllo. Ho avuto in parte una risposta. L'altra cosa che mi interessava era, per esempio, questo bollino provinciale o regionale che molti manutentori mi spacciano obbligatorio, altri sì, no, ma deve farlo ogni due anni, quando in realtà, per esempio, sul sito della Regione Lombardia viene indicato una tantum se le caldaie sono, diciamo, collaudate frequentemente, soprattutto hanno meno di 8 anni di vita. E infatti, anche perché l'età della caldaia sicuramente è un elemento fondamentale per stabilire o meno l'importanza di un controllo. Io le dico la verità, Matteo, a mia mamma non abita in Lombardia, ha una caldaia che ha qualche anno, mi ha chiesto, ma è vero che devo farlo con una scadenza temporale più prolungata? E ho detto, guarda, l'impianto è vecchio, controllala tutti gli anni per cortesia, per cui sa, come dire, c'è anche un po', come dicevamo prima, un orientamento di buonsenso da seguire. In ogni caso, avvocato Accornero, questo bollino del quale parla Matteo, che cos'è? Dunque, il bollino è obbligatorio, è un tributo, in Regione Lombardia ad esempio è di 7 euro, ripeto, qui poi ogni normativa regionale stabilisce. La Regione Lombardia ha istituito il cosiddetto catasto degli impianti di riscaldamento, per cui poi fra gli oneri che ricadono sull'installatore è quello di trasmettere in via telematica la documentazione relativa alla verifica fatta per ogni impianto. Infatti la Regione Lombardia, quindi il bollino indica che per ogni impianto quante verifiche sono state fatte, se sono state fatte. Quindi il bollino indica che per quell'impianto sono state trasmesse tutte le informazioni da parte del manutentore alla Regione Lombardia. Esattamente. Ottimo, Yuri da Prato, l'ultimo ascoltatore che sentiamo, poi andiamo ancora con Nicoletta con un altro tema che riscalderà un po' i nostri ascoltatori. Li ha riscaldati parecchi, arrivano continuamente messaggi. Yuri da Prato, buongiorno. Buongiorno. Un manutentore. Io ho 30 anni e lavoro in un centro assistenza, sono il classico ragazzo. Il ragazzetto che per fonare 10 minuti la caldaia spilla 80 euro, ecco. Beh, innanzitutto volevo dire che c'è una cattiva informazione nei confronti del cliente o dell'utente, perché la manutenzione è sull'impianto riscaldamento e non sulla caldaia, punto uno. Comunque trovano tutto sul libretto fornito dal costruttore. Beh, sull'alimentazione che dalla caldaia si trasferisce all'impianto di riscaldamento. Diciamo che il controllo è complessivo. Il controllo è complessivo, quindi non è sulla caldaia in sé per sé come oggetto. E trova tutta la documentazione sul libretto fornito dal costruttore. Punto 2, c'è una cattiva pubblicità in queste cose, perché noi siamo i parassiti dello Stato. No, dove Iori, ci mancherebbe. Iori, ma no, io no, ve ne do anche 200 di euro se naturalmente l'impianto funziona, ci mancherebbe. Che hanno 200? No, Iori, ma lei quanto prende? Iori, lei quanto chiede? Qual è la tariffa corretta, equa, che un consumatore si deve aspettare che voi richiediate? 80 euro, perché la legge ti dice che ogni volta che te smonti il bruciatore saresti obbligato a fargli la prova fumi, cosa che viene fatta esclusivamente ogni due anni. E soprattutto, ma se c'è già un controllo, perché ci devono essere i controllori del controllo? Perché in Italia siamo così noi, Yuri, cosa le devo dire? Capisco che lei, che ha 30 anni, ha tutto l'entusiasmo di questo mondo, si indispettisca rispetto a tutto questo. Adesso, allora, chiudiamo a Carmelo, che oggi fa il compleanno, quindi non distrarti. Auguri, Carmelo. Fra 5 minuti, l'ultima raccomandazione la affido all'avvocato Accornero, appunto, accendiamo l'impianto di riscaldamento, l'ultima raccomandazione che facciamo ai nostri ascoltatori. Raccomandazioni, Una sull'aspetto economico, chieda sempre il preventivo per evitare brutte sorprese. E la seconda, fare anche delle convenzioni con le aziende qualificati, cioè iscritti alla Camera di Commercio. È un diritto del consumatore richiedere al manutentore di esibire la visura della Camera di Commercio dalla quale risulta che lui è iscritto come manutentore di impianti termici. Questa è una doppia garanzia di professionalità e qualità, e il preventivo evita brutte sorprese di chi fa magari un po' il furbetto sul mercato e che siamo i primi a condannare. I furbetti del quartierino che sono sempre dietro l'angolo, Nicoletta. Lo sappiamo, arrivano ancora tanti messaggi a proposito della caldaia. Un ascoltatore ci scrive: ti infilano i ricambi ogni volta. Ma come capita con la macchina, come capita con tutto. Mentre un ascoltatore dice che i tempi di attesa sono stile TAC alla ASL. Cioè per fare il controllo e magari non accorgiamoci, siccome lo accendiamo tutti gli anni, magari non ricordiamoci di fare la manutenzione il giorno prima dell'accensione, no? Io sono... Quanto è saggia la mia amica. Sì, poi bisogna vedere cosa succede a casa mia. Vorrei vedere la caldaia di Deborah Rochelle. Ma il riscaldamento centralizzato, ci pensa l'amministratore di condominio. Per quello. Vedi? Sono viziata. Tranquilli. Allora, come concludiamo molti in bellezza? Molti ascoltatori si sono divertiti dalla nostra associazione, dalla Caldana Caldaia. E ci sono dei messaggi molto carini, divertenti, però le caldane non sono assolutamente divertenti, come ci scrive ad esempio Patrizia e Emma, Giovanna e molte ascoltatrici che stanno aspettando un'indicazione. Che cosa si fa quando sembra di essere seduti su una caldaia, come scrive Maria? Bene, c'è una ricerca interessante che vogliamo commentare con la professoressa Lucini di Humanitas. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Insomma, non affrontiamo oggi la terapia ormonale sostitutiva, ma parliamo di caldane. Una ricerca dice: se vuoi sfiammarti, se vuoi ritornare fresco, muoviti. In sostanza è questo il messaggio di una ricerca, che la dispersione del calore, in sostanza, che l'esercizio fisico aiuti a sentire meno caldo. Professoressa Lucini. Sì, sicuramente l'esercizio fisico, come sappiamo, ha tanti effetti benefici. Uno può anche essere quello di essere d'aiuto nelle donne in quella fase della vita in cui ci possono essere queste caldane o vampate. Qual è l'attività fisica che serve in questi casi? È sempre, diciamo così, quello che diciamo ogni volta, cioè l'attività quella di tipo aerobico, cioè camminare, correre, nuotare, andare in bicicletta, che deve essere fatto ad una intensità, cioè una fatica non troppo alta ma nemmeno troppo bassa, il cosiddetto camminare a passo veloce. Diciamo che comunque il beneficio non è tanto legato a ho la caldana, vado a fare la camminata, quanto il fatto di fare regolarmente un certo tipo di attività fisica che rende più gestibile quelli che possono essere i sintomi della menopausa, compreso questo. Quindi la caldana non sparisce, ma ci dà meno fastidio. Esatto, non è che la caldana sparisce, però è più facile gestirla. Beh, prima o poi però spariranno queste caldane, sì, no? Prima o poi vanno via. Deborah ride. Quando sono 5 gradi sotto zero a Milano. Mezz'ora di passo sostenuto al giorno toglie la caldana di torno? Possiamo dire così? Possiamo dire così, non è proprio così, però ci avviciniamo anche a questo. Sforneremo dei proverbi da questa trasmissione che non oso neanche immaginare. Grazie professoressa Lucini. Bene, grazie. A voi, a presto, arrivederci. E Cuore Denari anche per oggi sta andando verso la conclusione. Cara Nicoletta, abbiamo terminato, ma domani possiamo già anticipare l'argomento di cui ci occuperemo, così cominciamo a stuzzicare gli ascoltatori. Anticipiamo su Facebook più tardi, o vuoi sì. dare due parole? Ma guarda, in realtà io sono un po' tentata di occuparmi sia dei temi dei quali si sta occupando in queste ore il Consiglio dei Ministri, perché oggi varia la legge di stabilità, sono in arrivo altre tasse, è in arrivo un inasprimento sul risparmio degli italiani, per cui sto pensando un po'. Anzi, perché non ci scrivete che cosa vi piacerebbe che affrontassimo o domani o nei prossimi giorni? Come possono farlo? Possono scriverci una mail oppure andare sul nostro profilo Facebook, il profilo Facebook di Cuore e Denari. Grazie a Marco Lombardo, Laura Vanossi per, come sempre, il loro ruolo di controllori, angeli custodi della nostra trasmissione. E auguri a Carmelo Lauricella, che regia la parte tecnica e ha festeggiato con noi un po' il suo compleanno. Senza caldane. Con tanto desiderio. Grazie a Nicoletta Carbone. E a Deborah Rochelle. A domani. Cuore e Denari.